Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Insomma, diciamo che la frase di oggi della politica italiana, portata però a livello internazionale, lo scenario internazionale, è balls of steel, quindi diciamo la traduzione italiana così letterale sarebbe palle d'acciaio. Questa è quello che ha detto Letta, che pensano di lui in Europa in un'intervista all'Irish Times. Direi che connota un po' tutta la giornata politica, con poi i vari mal di pancia dei vari partiti all'interno della maggioranza. Parliamo fra l'altro con Renata Polverini più tardi a proposito di PDL, poi capiremo per esempio chi sono le ragazze doccia, questo fenomeno dopo le ragazzine che si prostituivano a Roma. C'è qualcos'altro per esempio che emerge piano piano a Milano e chissà che non sia purtroppo una punta di un iceberg. Insomma, sono tanti come sempre gli argomenti, lo sapete, però prima, nella prima parte, vi racconto, vi riepilogo la giornata attraverso i fatti principali. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, la riconoscete perché Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Potete fare i vostri commenti sui vari argomenti, anche sulle balls of steel se volete, o su tutti gli altri temi che tratteremo man mano. E poi c'è anche il numero, se volete, dei messaggi. Questa sera lo posso dare: 349-238-6666, questo per i messaggini, 349-238-6666. Ma partiamo coi titoli. Twitter, a proposito di social network, esordisce in borsa oggi con il botto, registra un più 90%. E poi c'è un nuovo minimo per i tassi dell'Eurozona, la Banca Centrale Europea li porta a 0,25%, rilanciamo la crescita, dice Enrico Letta da Dublino. E poi per la politica italiana, la Lega, Flavio Tosi è pronto a candidarsi alla segreteria del partito per contribuire, dice, a determinare una soluzione unitaria. Milano, adolescenti di buona famiglia offrono sesso in cambio di ricariche telefoniche e altri beni materiali. L'incidente sui binari a Pontida, 2 morti e 6 feriti. In Italia quasi 6.000 passaggi a livello ci sono, ma vengono tolti solo in 50 all'anno. Funzionano male. E poi per il calcio, la Fiorentina batte il Pandui 2-1 nella quarta giornata del gruppo di Europa League, disputata in Romania, e si qualifica matematicamente per i sedicesimi. E poi seguiremo anche invece la partita di stasera, sempre di Europa League. Ma approfondiamo adesso i fatti. Iniziamo quindi da quella che potrebbe essere una scossa per l'economia europea. Questo potrebbe infatti comportare il taglio, questa cosa potrebbe comportare il fatto che ci sia stato il taglio dei tassi di interesse portati dalla Banca Centrale Europea, come vi dicevo, allo 0,25%, minimo storico poi per l'euro. Tassi BCE al minimo storico. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo allo 0,25%. We decided to lower the interest rate on the main refinancing operations. I tassi resteranno bassi per un periodo prolungato, ha spiegato il presidente della BCE Mario Draghi, secondo il quale Francoforte stima un possibile prolungato periodo di bassa inflazione per la zona euro. Draghi ha però messo le mani avanti circa i timori di una spirale nel calo dei prezzi. Non vedo deflazione in futuro. Ci sono alcuni riallineamenti di prezzi fra diversi paesi, ha detto Draghi. La BCE ha anche deciso di fornire ulteriore ossigeno alle banche, annunciando l'estensione delle operazioni di rifinanziamento a 3 mesi fino al secondo trimestre del 2015. Nei fatti, la garanzia che gli istituti bancari dell'Eurozona continueranno a beneficiare di un flusso potenzialmente illimitato di prestiti a basso interesse. Sempre sui tassi, Draghi ha tenuto a precisare che la BCE non ha ancora raggiunto la soglia minima, in linea di principio potrebbe ancora portarli a zero. La ripresa nell'Eurozona continua, ma è debole, fragile e disomogenea. Anche la disoccupazione appare molto elevata, ha poi analizzato Draghi, che ancora una volta ha avvertito i mercati. La BCE è pronta a considerare tutti gli strumenti a disposizione per sostenere l'Eurozona. Singolare la reazione delle borse europee. Dopo un'accelerazione globale hanno tutte preso strade diverse. Milano ha perso il 2%, male Madrid, stabile Parigi, alla fine ha guadagnato solo Francoforte. Cala anche l'euro, ma questa, possiamo dirlo, è una salutare boccata d'ossigeno per il nostro export. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E da Dublino il presidente del Consiglio Enrico Letta ha commentato così: questa è una grande notizia che mette la crescita al centro della politica della Banca Centrale Europea. Difende il lavoro fatto dal suo governo, anticipa gli obiettivi del semestre europeo a guida italiana. Parla a Dublino il presidente del Consiglio. Letta loda il modello Irlanda, conti pubblici in ordine e gestione brillante dei fondi europei. Dopo una legislatura tutta basata sull'austerità, noi vogliamo che inizi con la presidenza italiana una legislatura basata sulla crescita. La crescita dunque come politica per uscire dalla crisi, e in tal senso, spiega Letta, il taglio dei tassi approvato dalla BCE va nella giusta direzione. Che è la dimostrazione che la Banca Centrale Europea ha a cuore le sorti della crescita e della competitività dell'Europa. La mossa della Banca Centrale Europea, dice ancora Letta, è uno stimolo ad andare avanti puntando all'uscita dalla crisi passo dopo passo, come stiamo facendo con la legge di stabilità. Il paese ha bisogno del lavoro che stiamo facendo, aggiunge il Premier, ma sapevo che le larghe intese sarebbero state difficili. Quindi una battuta finale di Letta alla stampa irlandese: cosa pensano di me le cancellerie europee, che ho tirato fuori gli attributi? Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche se ha proprio detto balls of steel, ma comunque ora passiamo al pirotecnico esordio di Twitter in borsa. La quotazione del sito di microblogging è andata oggi benissimo, tanto che fa impallidire Facebook, che debuttò invariata. In pochi minuti il titolo sfonda il muro dei $50 per azione, arrivando a guadagnare oltre il 90% sul prezzo di collocamento fissato a $26. Però di questo parleremo più tardi, un approfondimento che faremo con un collegamento con gli Stati Uniti. C'è una buona notizia per la scuola, il decreto legge scuola è per l'appunto legge, oggi è arrivato il via libera del Senato del provvedimento che stanzia 450 milioni di euro per la scuola, per la ricerca e l'università. Si torna a investire nella scuola, così ha detto la ministra Maria Chiara Carrozza. E vi ricordo che domani col Sole 24 Ore c'è uno speciale decreto sulla scuola con tutte le novità sia per le famiglie sia per gli insegnanti. Ora la politica per quanto riguarda i partiti e ancora fibrillazioni nella maggioranza. Non è piaciuta ai governativi del PDL la decisione di anticipare al 16 novembre il Consiglio nazionale del partito, una riunione che dovrà sancire il ritorno a Forza Italia, ma che sarà anche l'occasione per una conta interna pochi giorni prima del voto cruciale sulla decadenza di Berlusconi. A dare voce ai malumori degli uomini più vicini ad Alfano è Fabrizio Cicchitto, che non esclude di disertare l'appuntamento e poi aggiunge: se Forza Italia è un partito che ha una direzione collegiale e collettiva, io c'è. Se Forza Italia è un partito estremista guidato da un gruppo estremista e senza una dialettica democratica, non c'entro. Parole che fanno insorgere i falchi, che parlano di minacce irricevibili in contrasto con i governativi. I lealisti ripetono anche che non sarà possibile restare al governo se il PD voterà la decadenza del Cavaliere, così Renata Polverini. Io credo che ci sono le condizioni per ritrovarsi intorno alla leadership di Silvio Berlusconi. Credo anche che non si può chiamare estremisti coloro i quali invece fanno parte dello stesso partito e con i quali si può ritrovare l'unità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La sospensione del tesseramento nel PD dopo i casi di iscrizioni a valanga in molte sezioni del partito continua a dare esca alle polemiche tra i candidati alle primarie dell'8 dicembre, divisi tra favorevoli e contrari. Tra i primi c'è Gianni Cuperlo, secondo il quale gli iscritti devono poter credere nel PD, quindi occorre dare un segnale e bloccare le iscrizioni a partire da lunedì. D'accordo sullo stop è anche Matteo Renzi, che comunque specifica: non sarò io a preoccuparmi delle regole. Il messaggio è indirizzato a Gianni Pittella e Pippo Civati, gli altri due sfidanti alla segreteria del partito, che invece sarebbero contrari alla sospensione del tesseramento. Ma Civati ribatte: secondo lui Cuperlo e Renzi hanno fatto finta di non vedere le cose. E dai microfoni di Effetto Giorno Civati è intervenuto sul blocco definendolo tardivo e parziale e ha risposto a Davide Zoggia, che dava la colpa delle iscrizioni gonfiate a qualche RAS di provincia. Purtroppo è scandaloso dire così, perché o i nostri candidati sono dei deficienti oppure dovrebbero conoscere i loro sostenitori a livello locale. I miei sostenitori non hanno fatto niente di tutto quello che si racconta. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda l'opposizione, restando sulla politica, Flavio Tosi, sindaco di Verona, si dice pronto a candidarsi alla segreteria della Lega. C'è la mia disponibilità a candidarmi, spiega, non tanto perché io ci tenga a fare il segretario, ma perché spero di contribuire a determinare una soluzione unitaria, unità di tutti, dice ancora Tosi, tranne Bossi, naturalmente lui faccia quello che gli pare. Dalla politica alla cronaca, un operaio è morto, un altro è rimasto ferito nel crollo di una palazzina a Piana degli Albanesi in via Matteotti a Palermo. I due stavano lavorando alla ristrutturazione dell'immobile e restano ancora da capire le cause del crollo. E a Pontida, nel Bergamasco, oggi si è consumata una tragedia. Un treno ha travolto un'autoambulanza sui binari dopo che il passaggio a livello per errore si era sollevato. Due i morti e sei i feriti. Sembra che le sbarre si siano alzate proprio mentre passava il treno. Un guasto? Carenza di manutenzione? È presto per dirlo. L'unica cosa certa è che, secondo le statistiche, nella maggior parte dei casi ai passaggi a livello si muore per errore umano, spesso per abitudine dei pedoni che abitano nei tanti centri tagliati in due dalle ferrovie e si sono abituati a attraversare anche con le sbarre abbassate. A volte sono invece guidatori che cercano di passare anche mentre le sbarre si stanno abbassando e fanno male i conti con la lunghezza e le caratteristiche del passaggio. È così che nell'ultimo quinquennio in Italia ci sono stati in media 15 incidenti all'anno, tutti con uno o più morti. In questo stesso periodo, in 42 paesi, compreso il nostro, in primavera si tiene una giornata di informazione per la sicurezza ai passaggi a livello, ma passa quasi inosservata. Eppure l'unico modo per risolvere il problema è proprio sensibilizzare la gente. Eliminare i passaggi a livello resterà un sogno. Negli ultimi 30 anni le ferrovie dello Stato ne hanno soppressi oltre 1.600, spendendo ben 1.250 milioni di euro. Ma ne restano ancora 5.600, uno ogni 3 km di linea, più un altro migliaio gestito da privati. E ogni anno se ne riesce a eliminare appena una cinquantina. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso spostiamoci a Milano per il caso delle 8 adolescenti benestanti che a scuola offrono sesso in cambio di regali. Questo è un fenomeno che potrebbe essere molto più esteso. Giovanissime, senza problemi economici, eppure dedite alla prostituzione. Succede in alcune scuole di Milano. Le ragazzine in questione hanno dai 14 ai 16 anni, frequentano istituti privati del centro, provengono quasi sempre da famiglie benestanti. Ogni giorno fanno sesso nei bagni della scuola in cambio di beni materiali, oggetti, schede telefoniche e forse soldi. Durante le lezioni delle prime ore sui telefonini gira il menu con prestazioni, richieste e orari per gli appuntamenti nella toilette. I ragazzini, anche più di uno, vengono scelti in cambio di quello che possono offrire. Vengono chiamate dai coetanei, le ragazze doccia perché così come ci si lava ogni giorno, loro ogni giorno offrono prestazioni sessuali. A rivelare l'inquietante fenomeno il professor Luca Bernardo, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano. 8 le ragazzine che hanno sinora confessato questa pratica all'interno di percorsi di assistenza relativi ad altri tipi di problematiche come droga o bullismo. Il sospetto è che il fenomeno sia molto più esteso e la preoccupazione è che nel giro possano entrare anche degli adulti, visto che alcuni adolescenti ormai fungono da procacciatori di clienti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 ore. E come vi avevo anticipato, di questo poi parleremo con un esperto più tardi. Intanto un'altra notizia di cronaca: vedo dei 3 poliziotti arrestati oggi a Milano perché accusati di una serie di blitz fuori dalle regole. 2 sono finiti in carcere, un altro è stato messo agli arresti domiciliari. Altri 2 agenti della Polfer, cioè della polizia ferroviaria di Lambrate, invece sono indagati a piede libero. Il sospetto è che la droga sequestrata senza verbalizzazioni venisse usata dagli stessi agenti. Pare chiudersi il caso Prib, che secondo il quotidiano La Repubblica, la salma del capitano nazista, il capitano dell'SS, morto a 100 anni pochi giorni fa, riposa nel cimitero di un carcere italiano. Sarà sepolto in un cimitero semi-abbandonato in un carcere italiano l'ex capitano delle SS Erich Prib, che è deceduto a Roma l'11 ottobre scorso. Non è ancora pubblica la località, probabilmente per evitare incidenti come quelli accaduti quando la salma fu trasferita ad Albano Laziale per celebrare i funerali presso la comunità San Pio X. Dopo la morte sono scoppiate le polemiche. Il figlio aveva proposto di seppellirlo provocatoriamente in Israele, mentre la comunità ebraica romana aveva promesso battaglia per evitare che la sua sepoltura diventasse un luogo di raccolta per nostalgici. Un tentativo di funerale fu organizzato ad Albano Laziale nella cappella dei Lefebriani, annullato dal prefetto e conclusosi tra le contestazioni. Della salma trasferita di notte a Pratica di Mare non si era saputo più nulla fino ad ora. Ma per il legale dell'ex ufficiale nazista Paolo Giachini, il cimitero non sarebbe quello della sepoltura. Le foto pubblicate questa mattina sono prese da un film dell'orrore, ha detto l'avvocato del capitano delle SS. Le immagini sarebbero di un posto che non ha niente a che vedere con la sepoltura del signor Pripke. Il legale del responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine ha voluto aggiungere poi che dall'articolo di Repubblica sembra che si cerchi di svelare un segreto che non svelano. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso una notizia che è arrivata poco fa dagli Stati Uniti. Il voto del Senato di oggi è un passo storico per l'America verso la realizzazione dei nostri ideali di libertà e di giustizia. Così ha detto il presidente americano Barack Obama per commentare a caldo l'approvazione bipartisan del Parlamento americano della legge contro le discriminazioni e i danni dei lavoratori omosessuali. Per chiudere il calcio, per l'Europa League la Fiorentina batte Pandui 2-1 nella quarta giornata del gruppo e in questo modo si qualifica matematicamente per i 16esimi. E poi c'è la Lazio contro l'Apollon in campo questa sera dopo lo scialbo pareggio in terra cipriota. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando. Vi ricordo che per i vostri commenti c'è anche il numero per gli SMS che stanno arrivando, 349-238-6666, oppure anche la pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco vi presento la prima ospite di questa sera. In diretta però vi ricordo, dopo la pausa, i titoli. Twitter che esordisce in borsa con il botto e registra un più 90%, poi c'è un nuovo minimo per i tassi dell'Eurozona, la Banca Centrale Europea li porta a 0,25%, rilanciamo la crescita, dice Enrico Letta da Dublino. Per quanto riguarda la politica, a parte le tensioni abbiamo sentito della maggioranza, Flavio Tosi è pronto a candidarsi alla segreteria della Lega per contribuire a determinare una soluzione unitaria. A Milano adolescenti di buona famiglia offrono sesso in cambio di ricariche telefoniche e altri beni materiali. E poi l'incidente sui binari a Pontida, 2 morti e 6 feriti. In Italia quasi 6.000 passaggi a livello sono stati tolti, però ce ne sono molti che non funzionano. E poi il calcio, abbiamo sentito che si è qualificata la Fiorentina per i 16esimi nell'Europa League, adesso c'è invece in campo la Lazio con l'Apollon. E do la benvenuta a Renata Polverini. Onorevole Polverini, buonasera. Pronto? No? Ecco, sì, perché lo schermo delle telefonate è andato via, quindi saluto Emanuele Iannini, buonasera. Buonasera. Finisce sempre in Ini, ma c'è dopo l'onorevole Polverini. Non sono la Polverini, questa Polverini, credo di capirlo, di percepirlo con le orecchie. Sì, professore, sì. Docente di sessuologia medica all'Università degli Studi dell'Aquila, col quale vorrei parlare appunto di questo fenomeno ultimo che è venuto fuori per quanto riguarda gli adolescenti a Milano. Allora, nei giorni scorsi ha fatto grande clamore naturalmente l'emersione di questa storia di ragazzine a Roma, nel quartiere Parioli, quindi un quartiere ricco di Roma, non certo degradato, anche se alcune delle ragazzine coinvolte venivano da famiglie con difficoltà economiche. Si è parlato appunto della prostituzione di queste studentesse che davanti alla scuola venivano caricate da clienti con cui loro prendevano accordi e poi scambio di sesso con soldi e così via. A Milano ha letto oggi invece un'indagine che è stata fatta dall'equipe del direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Tra ragazzine sempre minorenne è emerso che diverse tra 14 e 16 anni, soprattutto nelle scuole private, vengono chiamate ragazze doccia perché, come si fa la doccia tutti i giorni, fanno anche loro sesso tutti i giorni, ma con delle motivazioni particolari vanno nei bagni, prendono accordi con i compagni della stessa età in questo caso e fanno sesso in cambio di ricariche telefoniche, di cellulari e altri beni materiali. Che cosa sta succedendo al di là, no, di giudizi morali o immorali, al di là dell'etica, ma proprio nel modo di concepirsi anche e soprattutto delle ragazze, della propria identità, del proprio corpo, la propria dignità, i propri desideri? Io ho la sensazione che non stia succedendo molto di più di quello che è sempre successo, salvo che adesso ci sono, come dire, possibilità maggiori e motivazioni che sono perversamente banali, tragicamente stupide, nel senso che mentre la prostituzione, che è comunque una tragedia, un fallimento, può avere una qualche logica nel bisogno, una logica dolorosa ovviamente, è orribile, ma può esserci, ecco, quello che ci colpisce di queste storie è la futilità, la stupidità. E allora, forse, tanto per dire una cosa un pochino controcorrente, certo che i nostri ragazzi non ricevono l'educazione sessuale, certo che la scuola si è dimostrata ampiamente inadeguata da questo punto di vista, perché non c'è nessuna educazione né ai sentimenti né al sesso, ma c'è di più. Io ho la sensazione veramente chiara, veramente netta, che questi ragazzi siano il risultato di una tremenda ignoranza, indipendentemente da tutte le altre considerazioni, che sono tutte vere. Non è solamente i valori che non ci sono più, la cosa, la famiglia che non esiste, luoghi tutte comuni cose a che volte, sappiamo sì, tutti, che sono ripetute tante ma volte. Sono proprio ignoranti. Cioè la mia idea è che un antidoto potentissimo, più di qualsiasi cosa, più di qualsiasi educazione, è semplicemente sapere, semplicemente cultura, semplicemente buona scuola, bravi professori. Tanti compiti a casa, mi rendo conto della banalità di quello che sto dicendo, ma credo che sia veramente lì il nocciolo, perché solamente la cultura permette a un ragazzo di discernere. Però professore Iannini, in realtà per quanto riguarda queste ragazze, l'indagine che è stata fatta dall'equipe del Fate Bene Fratelli di Milano, quelle che hanno parlato di sé, che hanno un po' confessato la loro situazione, sono per ora 8, di cui 7 di famiglia bene, del centro di Milano, quindi non appunto un po'... No, ha parlato di cultura, infatti. Sì. Quindi non sono i soldi, certo. Non sono i soldi, chiaro, la cultura non la fanno, certo, i soldi. A volte peggio. No, esatto, molto peggio, perché magari una ragazza che ha tutto, non deve fare nessuna fatica, può essere meno motivata di una ragazza invece che deve dimostrare attraverso appunto una scalata, no, alla società in qualche modo, e quindi si approvvigiona più rapidamente di... appunto di cultura. Ma è proprio questo, insomma, mi sembra, d'altra parte devo dire la verità, c'è un dato scientifico che mi conferma in quello che dico: il paese europeo che ha probabilmente la migliore o tradizionalmente migliore educazione sessuale è l'Inghilterra, che è anche il paese europeo dove c'è il più alto numero di aborti sotto, appunto, i 12 appunto, anni. Dove ecco. Le ragazzine sono spesso incinta, esatto, in età, e come esattamente, mai? E come che, mai? Che significa? Che l'educazione sessuale da sola non basta. E contemporaneamente dobbiamo ammettere, rischio che l'ambasciata inglese mi tiri le penne, dobbiamo ammettere che il sistema educativo in Inghilterra è spaventosamente basso ai livelli bassi, è spaventosamente alto nei grandi college di Oxford e di Cambridge, dove c'è la migliore educazione possibile nel mondo. C'è in Inghilterra proprio questa spaventosa differenza di una scuola pessima per tutti e una scuola migliore del mondo per pochi. E questo è proprio, sono abbastanza certo che è la spiegazione di quello che osserviamo, no? È un dato assolutamente raccapricciante, ci fa capire che non è appunto semplicemente l'educazione sessuale, come si diceva una volta, come tutti credevamo, io per primo, che fosse essenziale e sufficiente educare al sesso. No, non si tratta semplicemente di spiegare come sono fatti i preservativi, non si prendono le malattie, cose fondamentali, importantissime, non sto dicendo che non però servono, non bastano, ma non bastano, la pratica, quelle riguardano la, esatto, pratica, poi ci vuole anche quello qualcosa. Che si vuole è dare ai ragazzi quegli strumenti che solamente la cultura, non mi viene in mente un altro termine, il sapere, una versione di latino in più, sicuramente questo difende più di qualsiasi altra cosa alla fine, perché è quello che dà lo strumento al ragazzo di scegliere, alla ragazza di rendersi conto, ecco. Che cos'è la ricarica di un telefonino? Per avere in cambio l'umiliazione, diciamoci la verità, perché è così, la orribile umiliazione di fare una cosa essa stessa considera assolutamente non degna di sé. Perché se lo facessero per piacere o per cominciare a esplorare, nessuno, sì, nessuno a fare esperienze, nessuno strapperebbe, no, perché sarebbe anche l'età. Mentre tutte queste storie sono storie di fallimenti. Leggo, mi scusi, professor Iannini, uno dei messaggi che arrivano al 349-238-6666 di Tina, che dice: se ragazzine di famiglie bene si prostituiscono, lo fanno per mancanza di autostima, valori e giusti insegnamenti. È triste quando lo fanno sempre più per sopravvivere. Però questo non sembra il caso della sopravvivenza, a parte una ragazzina su queste 8 che si sono confessate, no? Ma se lei dovesse dare... No, non è questo il caso. E poi questa storia dei valori, voglio dire, sì, è giusto, questo non c'è ombra di dubbio, però anche questo non mi basta, no? Questa idea dei valori che sembra un pochino da vecchio signore in pensione al parco con il cagnolino che dice che non ci sono. Ma allora mi dica una cosa, professor Giannini, un consiglio che darebbe ai genitori, e non dico di queste ragazzine in particolare, delle ragazze in genere, e alle ragazze stesse di questa età, di 13, 14, 15 anni. È lo stesso consiglio, io mi farei un esame di coscienza e direi: io sono capace, ho gli strumenti per leggere la realtà intorno a me. Una ragazza non se lo chiederebbe questo, forse no, un genitore. Certo, ma un educatore è quello che dovrebbe, sì, fare. Educatore. E diciamoci la verità, la scuola sta diventando sempre più latitante da questo punto di vista. I professori, i maestri sono terrorizzati di dare troppe informazioni ai ragazzi, no? E qui ci ossessionano l'idea di dover insegnare a usare il computer, che è la più grossa cretinata del mondo, perché tutti lo sanno usare perfettamente, ed è proprio una cosa di una vergognosa idiozia, mentre questi ragazzi non hanno gli strumenti per capire la realtà che sta intorno a loro, per difendersi da tutte queste situazioni, perché ci sono questi stimoli, ci sono, è ovvio che è una scorciatoia, tutte queste storie contano di scocciatoie, ragazze che pensano che il modo più semplice per essere accettate dal gruppo, dalla loro microsocietà è avere il telefonino giusto, e siccome non riescono ad avere attraverso la famiglia se lo procurano con questa scocciatoia. È orribile, è un vero e proprio fallimento dall'inizio della propria vita. Però come facciamo a dare più autostima? Perché secondo me è anche una grossa mancanza di autostima di queste ragazze. Oggi come oggi, insomma, anche se diciamo che la parità assoluta neanche in Italia, cioè non c'è in altri paesi, ma non c'è neanche in Italia. Però queste ragazze dovrebbero essere un po' diverse, un po' più sicure di sé, un po' più con ambizioni diverse. Che non questa di volere un telefonino e scambiarsi sesso con un coetaneo nel bagno. Non c'è dubbio. Cosa gli si può dire? Come si può alimentare l'autostima di queste ragazze? Dimostrando loro che c'è una strada differente, che non quella della banalità di un sistema che tutto sommato non voglio dire la solita cosa: i media ci trasmettono queste cose, Facebook ci aiuta in questi comportamenti, ci stringe in qualche modo a questi comportamenti, perché queste sono cose appunto abbastanza banali. Vorrei dire qualcosa di un pochino più articolato. Se io gli do lo strumento per capire, è molto più probabile che saranno sempre di meno le persone che fanno queste cose. Se io abolisco qualsiasi sforzo da parte dei ragazzi nel momento in cui si formano e rendo la loro vita scolastica assolutamente piatta com'è attualmente, e quindi non gli do informazioni sufficienti, la possibilità di accedere a questi comportamenti devianti è molto più elevata e l'autostima di conseguenza diminuirà, perché se lei dice giustamente, ha ragione a dire che lo fanno perché non hanno abbastanza autostima, io le dico che ne avranno ancora di meno dopo averlo fatto. Ma questo, le chiedo solo una risposta sintetica finale, professore Emanuele Iannini. Secondo lei è un fenomeno circoscritto o più diffuso di quanto possa sembrare? È molto difficile dire una risposta scientifica da questo punto di vista. Io ho la sensazione che per fortuna sia relativamente circoscritto. Speriamo che sia naturalmente così. Naturalmente ci salta agli occhi, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Grazie professore Emanuele Iannini, la ringrazio. Grazie, buona serata. Adesso c'è, vedo servizio pubblico, c'è Renzi oggi, protagonista assoluto. Sentiamo se... Qual è la sua opinione? Ho letto un'intervista questa mattina Repubblica su questa conclusione del caso Cancellieri. Ecco, sentiamo cosa. Le dico subito, mi faccia dire che io sono profondamente colpito dalle immagini delle famiglie che stanno fuori dal carcere a Napoli. Perché... Senza nemmeno una transenna, diciamo così. No, ma non solo, perché il tema dell'emergenza carceraria è un tema serio. Affrontarlo come è stato fatto, soltanto partendo dall'amnistia e dall'indulto, è veramente una cosa inaccettabile. Noi abbiamo quasi 70.000 persone in carcere, hanno diritto a una pena che sia rieducativa, questo dice la Costituzione, e a condizioni di vita decenti e umane. Non si fa liberando con uno spot demagogico per un anno le celle con un provvedimento di indulto, come è accaduto nel 2006, ripetuto dopo 7 anni, ma si fa avendo il coraggio di dire qualcosa sulla custodia cautelare, qualcosa sulla sessione Cancellieri, sulla Fini Giovanardi, qualcosa sulle misure alternative. Lo dico perché altrimenti poi diamo sempre l'impressione di non affrontare i problemi per quelli che sono, e mi piacerebbe un giorno parlarne nel dettaglio. Lei però mi chiede della Cancellieri. Sì, punto. Io devo dirle quello che penso con molta sincerità e poi cercare di farci un ragionamento sopra, se lei è d'accordo e se sono d'accordo i suoi ospiti. Credo che sia inaccettabile che sia andata a finire così. Se io fossi stato il segretario del PD non avrei difeso la Cancellieri, e credo che avrebbe fatto un servizio al paese se si fosse dimessa. Bene, mi pare che sia stata una risposta chiarissima. Dopodiché noi ci prendiamo questa pausa di pubblicità e dopo con altri argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui, ho perso un colpo, vi racconto tra poco di nuovo le notizie principali, poi saluteremo finalmente l'ospite che ho annunciato prima, e sono tanti gli argomenti, potete sempre fare i vostri commenti sulla pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, anche Twitter Roby con la Y linetta bassa Giordano, e anche al numero 349-238-6666 stanno arrivando i vostri messaggi, ma vi ricordo i fatti principali. L'esordio con fuochi pirotecnici praticamente di Twitter in borsa registra un più 90% oggi al suo esordio. Poi c'è il nuovo minimo per i tassi dell'Eurozona, la Banca Centrale Europea li porta a 0,25%. Rilanciamo la crescita, dice Enrico Letta da Dublino. Per la politica, la Lega con Flavio Tosi, che dice pronto a candidarsi alla segreteria della Lega Nord per contribuire, afferma, a determinare una soluzione unitaria. Ne abbiamo appena parlato a Milano, questo fenomeno di adolescenti di buona famiglia che offrono sesso in cambio di ricariche telefoniche e altri beni materiali. E Stati Uniti, il Senato approva la legge antidiscriminazione gay nei luoghi di lavoro e Obama dice è una decisione storica. Per il calcio la Fiorentina si è qualificata in Europa League ai sedicesimi e intanto ci sono in campo sempre per Europa League Lazio-Apollon. Lazio per il momento conduce per 1-0. Onorevole Renata Polverini, buonasera. Buonasera a voi. Devo dire PDL, Forza Italia, PDL trattino Forza Italia? Diciamo che in questo momento ci chiamiamo PDL trattino Forza Italia, nel senso che c'è stata una decisione, ma il Consiglio nazionale dovrà confermare ovviamente la scelta di ritornare a Forza Italia. Una fase di transizione molto tormentata, onorevole molto Polverini. No? Sì, ecco. Molto complicata. Si legge dappertutto, è sempre più vicina alla resa dei conti, poi è stato anticipato, come diceva lei, il Consiglio nazionale al 16 di novembre, giusto? Al 16 di novembre. Novembre. C'è stato il sabato prossimo. Sabato non prossimo. Adesso, la prossima settimana. Poi c'è il documento degli Alfaniani in difesa del governo. Oggi c'era anche la lettera di Cicchitto a caro Silvio. Iniziava oggi sul Corriere, così diventerai prigioniero dei falchi. Insomma, c'è un pentolone che bolle piuttosto forsennatamente. Come stanno le cose? Aiuti Renata Polverini a chiarire a chi sta cercando di capire. Io parto dalla lettera di Cicchitto che appunto, come lei ricordava, dice caro Silvio diventerai prigioniero dei falchi. Intanto ricordo a me stessa che il 2 ottobre con la famosa fiducia che poi Silvio Berlusconi ha voluto comunque confermare con tutto il partito al governo, di fatto sono state le cosiddette colombe a fare prigioniero il presidente Berlusconi, perché mentre lui ne aveva discusso con Angelino Alfano di dimissioni e soprattutto evidentemente non si sentiva più di sostenere questo governo, Angelino Alfano, che pure allora era segretario, non ha ritenuto di contrastare la decisione di Silvio Berlusconi, non ha ritenuto di convocare tutti i suoi parlamentari da segretario, ma ha tirato fuori una lista nella quale alcune persone selezionate con lui condividevano una scelta diversa da quella che il partito aveva fatto. Quindi da quel momento in poi le cose sono cambiate. È stata tolta, chiamiamola così, la golden share, diciamo, a Silvio Berlusconi e soprattutto a tutto il PDL, cioè ai 10 milioni di voti che il PDL ha preso nel mese di marzo, e quindi ad oggi io direi che sono loro eventualmente che tengono prigioniero Berlusconi e non i falchi. Però onorevole Polverini, allora, da una parte è vero che, bisogna riconoscerlo, difficilmente si individua dentro il centrodestra, dentro il PDL, un leader che possa competere con il carisma di Silvio Berlusconi. Dall'altra parte però Silvio Berlusconi si trova in una situazione, diciamo, con le sue vicende giudiziarie piuttosto difficile e da difendere sul piano politico in prima istanza, o no? Ma vede, quest'uomo ha regalato a questo paese 20 anni di centrodestra, non ci dimentichiamo quello che fece nel 94 dalla sua discesa in campo e tutto quello che in questi anni comunque ha portato avanti attraverso politiche che noi ancora oggi riconosciamo come le nostre. È stato confermato sempre dagli elettori quale leader indiscusso e io penso che nel momento più delicato della sua vita politica istituzionale nessuno poteva in qualche modo staccarsi da lui con una violenza così tale come quella che abbiamo visto consumarsi in queste ore con Quagliariello che sventola una lista in Senato per dire la fiducia ce l'abbiamo noi, abbiamo comunque i numeri, Silvio Berlusconi non li ha più, e tutto quello che poi nei giorni successivi c'è stato. Quindi io ritengo che il nostro comportamento è leale non soltanto nei confronti di un uomo che ci ha condotto fino a qui, fino al governo di larghe intese, con tutto quello che dal 94 ad oggi è accaduto, ma la nostra lealtà va soprattutto agli elettori che ancora una volta, ripeto, a Silvio Berlusconi avevano appena dato 10 milioni di voto. Questo per noi è essere coerenti. Poi non abbiamo detto che vogliamo, ovviamente in una fase successiva, togliere la fiducia al governo, abbiamo detto che la lealtà nei confronti dell'elettorato è innanzitutto appunto nel portare avanti, a cominciare dalla legge di stabilità, quelle che sono le nostre, i nostri impegni, a cominciare dal fatto che la legge di stabilità, ma non lo dico io, l'ultima forse è stata in termini di autorevolezza la Corte dei Conti, questa è una legge di stabilità che rischia di deprimere ancora di più l'economia del paese e che soprattutto introduce nuove tasse invece di toglierle. Onorevole Pulverini, se dovesse essere, novembre adesso ancora non si capisce bene la data, votata, come ormai un po' tutti danno per scontata, poi sa le sorprese in questo paese, la decadenza di Berlusconi, quindi molto nettamente che cosa avete in mente di fare? Ma guardi, questo naturalmente lo decideremo nel momento in cui il Partito Democratico confermerà la propria scelta. Però starete preparando un piano B o no? Renata Pulverini. Ma guardi, non c'è nessun piano B, noi adesso abbiamo un Consiglio nazionale che riconfermerà saldamente alla guida del nostro partito Silvio Berlusconi, da quel momento in poi qualsiasi atto si compierà all'interno del Parlamento anche riguardo la decadenza di Silvio Berlusconi, lo discuteremo con lui e soprattutto nelle sedi appropriate. Quindi vediamo intanto fino a che punto il Partito Democratico intende andare avanti. Dicevo, perché noi avremmo potuto accettare se effettivamente il voto di decadenza fosse stato un voto, diciamo, frutto di norme regolamentari, ma lì è una scelta politica di non aver voluto concedere al leader del loro principale alleato di sostegno al governo Letta la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale per capire se la retroattività della legge Severino era giusta oppure no. Per cui lei dice, al di là di come sono andate così, però se il PD almeno avesse permesso di portare questa... Ma certo, perché noi non abbiamo chiesto di salvare nessuno, noi abbiamo detto semplicemente, è la prima volta che viene applicata ad un parlamentare, anche perché con questa decisione il Partito Democratico si assume la responsabilità di mettere in campo comunque un precedente che ovviamente potrà tornare utile o meno anche per prossime volte, mi auguro che non ce ne siano, che investirà probabilmente altri parlamentari. Abbiamo detto facciamo una verifica, c'è un organismo che è la Corte Costituzionale che esiste apposta perché ci sono delle leggi che possono appunto incorrere nel difetto di non rispondere ai requisiti che la Costituzione invece evidentemente impone. Non hanno voluto ascoltare questo, diciamo, questo. E quindi volete vedere come si va avanti su questa cosa? Vogliamo vedere che cosa succede. Certo, io lo dico con molta serenità, non ho fatto fatica a dirlo nei giorni scorsi, lo dico adesso, sarà complicato sostenere serenamente questo governo dopo che il Partito Democratico avesse votato la decadenza. Onorevole Pulverini, poco fa, adesso c'è Renzi a Servizio Pubblico con Santoro, ho fatto sentire proprio la parte dove commentava la vicenda Cancellieri. Santoro gli ha chiesto lei come si sarebbe comportato, ha detto: se io fossi stato il segretario del mio partito non l'avrei difesa e se lei si fosse dimessa avrebbe fatto un servizio al paese. Lei come la pensa sul caso Cancellieri? Guardi, io non sono la persona meno indicata, nel senso che sono forse l'unica in questo paese che si è dimessa semplicemente per non aver fatto nulla di ciò che in qualche modo aveva sconvolto questa regione poco più di un anno fa. Quindi, era a capo, diciamo, della regione. Era a capo di una regione, ma ovviamente sappiamo che mi veniva. Sì, ma sono caso Fiorito. Cose che sono successe in regioni, diciamo, anche in maniera più grave, non mi pare che si sia riguardato ormai 16 regioni, ormai, se non sbaglio. Esatto, sì, si è parlato in queste ore della Liguria, dell'Emilia Romagna, dove quei governatori, peraltro in particolare in Emilia Romagna, mi dispiace per il mio amico Vasco Errani, ma insomma è lì da 4 legislature, quindi forse come andava il Consiglio doveva, come dire, averlo capito meglio di quanto non avessi potuto fare io in soltanto 2 anni. Però quindi dicevo, io mi sono dimessa perché in quel momento ho ritenuto che non ero nelle condizioni di andare avanti con un Consiglio che in qualche modo aveva dato un pessimo spettacolo di sé, non aveva sicuramente fatto il servizio che doveva fare alla regione. Quindi l'ho detto e credo che quando ci sono momenti comunque di grave difficoltà di un'istituzione importante bisogna trarne le conseguenze. Dopodiché dico anche che Renzi, l'ho ascoltato anche io, lo poteva come dire esprimere in maniera più seria e plateale qualche giorno fa, invece dopo una prima battuta mi pare che si è riallineato. Ma mi sa che cosa... Sì, ma già i renziani erano stati i primi effettivamente all'interno della maggioranza. Però per chiudere, onorevole Polverini, che ne pensa delle palle d'acciaio di Letta? Adesso le leggo, guardi, le leggo, aspetti, prima del suo commento, mi perdoni. Posso dire una cosa, io non so se le abbia acciaio. Sicuramente, come dire... è una persona che, contrariamente al, diciamo, all'idea che forse molti di noi si erano fatti di lui in tanti anni di politica, non ci dimentichiamo che è da molto giovane che Enrico Letta è impegnato politicamente, si sta muovendo in una situazione molto complicata con molta circospezione. A volte sembra addirittura estraneo a tutto quello che accade nel nostro paese. Io rimango sempre molto sorpresa, anche oggi, è vero che aveva un'altra missione in campo europeo, però con tutto quello che accade nel suo governo, nei partiti che sostengono il suo governo, dice doveva restare nel in Italia. Suo partito, no, non dico che doveva restare, rimango meravigliata di come sembra scivolargli tutto addosso. Da questo punto di vista, diciamo, fa il British. Esatto, ho capito. Renata Polverini, onorevole, io la ringrazio e le auguro allora buon lavoro, ci aggiorneremo spero più in là, insomma. Grazie. Dipende da quello che succederà, la ringrazio. Grazie a lei, arrivederci. Buona serata. E leggo velocemente alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati sulle palle d'acciaio. C'è dunque Maurizio che dice lo chiameremo Flipper, e poi invece un ascoltatore, Fabio, insegnante, dice sono riflessi di cultura maschilista, chi si chiede comodamente di prostituirsi a 15 anni e non come un adulto possa pagare una minorenne. Ecco, ci si chiede come sia possibile, era scritto strano, come sia possibile con questo tipo poi di cultura e di linguaggio. Al numero dei messaggi, che è il, vediamo se me lo ricordo, il 347 266 238 6666. Era un parecchio tempo, parecchi mesi che non davo il numero dei messaggi. E poi sulla pagina Facebook invece effetto notte trattino Roberta Giordano, c'è dunque Roberto che dice per quanto riguarda il commento di Letta le palle secondo lui non ce l'ha. Patrizia dice no, la faccia di bronzo. Roberto, è sempre lo stesso ritornello, chi ha il potere fa quello che vuole. E Gianfranco dice questa uscita un po' bossiana di Letta mi lascia perplesso, ma non abbassa la mia alta considerazione dell'uomo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso parliamo invece con il prossimo ospite, con Roberto Lapira, direttore del fattoalimentare.it. Buonasera Roberto Lapira. Buonasera. Parliamo di un presidio alimentare che è un'eccellenza italiana, che riguarda la Campania per antonomasia in particolare, che è la mozzarella di bufala. Da quando c'è stata la dichiarazione giorni fa desecretata del pentito che Schiavone, che nel 97 profetizzò che nella regione di Caserta, nel casertano, per tutti i rifiuti tossici che le mafie avevano fatto smaltire nei terreni ci sarebbero stati per 20 anni e oltre morti di tumore. E allora adesso è venuto fuori un timore generale, insomma, si è cominciati a dire ma la possiamo consumare la mozzarella di bufala o no? Vogliamo dire che è circoscritto a quella zona in particolare, e per il resto voi che siete anche soprattutto un sito di inchiesta e di denuncia sulle questioni alimentari, che cosa potete dire a questo proposito, Lapira? Beh, che innanzitutto le parole di un pentito sono importanti, certo, hanno valenza, però come dire sono sempre di un pentito che dice un parere, come dire, di quelli che un po' generico per entrare nello specifico. In ogni caso si tratta di una notizia che è molto molto lievitata, perché non è una novità per gli addetti ai lavori. Le ASL locali controllano da anni queste problematiche dell'inquinamento del territorio, dell'aria, dell'acqua, tant'è che i casi della mozzarella alla diossina di un po' di anni fa, di allevamenti che sono stati abbattuti, di mangimi, di aree coltivate inquinate, sono abbastanza regolari in quella zona lì e sono controllate sul territorio dalle ASL locali. Questo va detto. In ogni caso si tratta di una piccola area conosciuta, per cui la storia di alcuni servizi mi sembra che siano lievitate in un modo abnorme, perché il problema esiste, ma è previsto anche in altre zone d'Italia. Io sono siciliano, voglio dire, a Priolo, Augusta c'è un buco nero, ci sono, cioè lì non si coltiva. Cioè, secondo lei hanno gonfiato l'allarme? Chi è stata lì? Il problema in media, esiste, ma successo? Gonfiarlo in questo modo non esiste, è un tipico vizio italiano di amplificare problemi che esistono e farli diventare veramente delle bombe atomiche. Mi viene in mente la storia della carne di cavallo, voglio dire, che è stata pompata in un modo incredibile quando c'era una frode commerciale importante, ma comunque abbastanza ridicola per quanto riguarda la valenza della salute e del consumatore, parliamoci chiaro, no? Per cui c'è un tipico sport italiano nell'ampliare dei problemi e di non vederne altri. Questo è, per cui il problema campano esiste, un problema ambientale come in tante altre zone d'Italia ci sono monitorate, per cui veramente tenderei a tranquillizzare i consumatori? Certo, non è, i problemi esistono in certi punti neri, ma non sono problemi di carattere nazionale che possono inficiare il prodotto di tutta la campagna di tutta Italia, insomma, voglio dire, questo va detto chiaro. Faccio un esempio pratico: noi come fatto alimentare cerchiamo abbastanza in modo attento a certe problematiche. Ci sono 700 persone che sono state colpite in Italia dall'epatite A per aver mangiato dei frutti di bosco surgelati, sì, contaminati dal virus. Molto tempo fa. No, di tutti i giorni, perché da aprile che è avanti questa storia qui, non ne parla nessuno. Sono 700 persone, i dati non sono, li abbiamo inventati noi, sono dati fatti, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle segnalazioni che arrivano dalle Quindi lei vuol dire la pira che su certe cose si martella molto, si fa clamore, forse anche si esagera, si mette troppa enfasi, e su altre si mette sopra il tappeto, se ne parla poco? Assolutamente sì. L'aviaria è l'altro esempio tipico, cioè i problemi poi se sono... Abbiamo ancora un minuto, la pira. Sì, se sono un problema che è facile per me, per cui la campagna, la diossina, i rifiuti, allora diventa grande. L'aviaria, cade l'uccello, tutte queste cose qui diventano veramente dei problemi enormi. Quelli veri sono altri, secondo me, e siccome fanno poca notizia, non sono così alla portata facile, allora se ne parla un po' poco, però ridimensioniamo il problema delle terre del fuoco, insomma, perché ci sono i controlli e li fanno in quelle zone, in modo particolare su questo inquinamento qua. Non è una novità, li fanno da 10 anni almeno. Bene, quindi possiamo mangiare tranquillamente. Ci sono tanti problemi, ma questo qui non va portato all'eccesso, insomma. Grazie. Grazie della tranquillizzazione. Grazie Roberto Lapira, direttore del fattoalimentare.it. Grazie, buona serata. Noi ci salutiamo per il momento, poi tra qualche istante ci risentiamo, così vi ricordo i fatti principali e gli ultimi aggiornamenti.